You got a slick chick, see? A neat chick, the she's part of makes me tick. Mama, hey, hey, hey. Clickety click, a slick chick. Hey, hey. Hey, hey. The hot heels on for the very first time. The very first time, man oh man, yeah. It was a night. Yeah. Yeah. Everybody stopped, we're on a dime to look. Yeah. Yeah. Even my heart, my heart got a shook. Yeah. Yeah. Yeah. She's my clickety click, I'll switch it. Yeah. Yeah. She's Miss Rhythm, she's Miss Rhyme. Oh man, see you mine, I said I got a stick chick, see, it's a neat chick, but see what I make me tick, mama, yeah, clickety click, a stick chick, yeah, don't you know she's a stick, mama, yeah, I stick a chick. Chick. Yeah, yeah. Mama, yeah, yeah, yeah. Clickety click, I'll stick chick. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I gotta yeah, click yeah. A little chick. Yeah, yeah. I don't yeah, you know she's slick. Yeah, yeah. E 54 Radio Wombat Slick Chick in super ritardo. Slick Chick inizia, però in effetti nelle ultime settimane non era neanche iniziata perché mi ero presa un po' di pausa, ma questa volta, seppur in ritardo, sono qua tra voi ai microfoni di Radio Wombat, appunto. E 20:54 il martedì, vi ricordo, essere il giorno deputato a questa trasmissione Slick Chick, che come molti e molte di voi sapranno ormai è una trasmissione dedicata alla musica, tutta la musica, vari generi, qualsiasi genere, spazia moltissimo e prende spunto per farlo da un oggetto, una parola, un qualcosa, una qualsiasi scusa che fa sì che possiamo parlare di più che parlare, beh, anche parlare, ma insomma più che altro farvi ascoltare tutta la musica che ci viene in mente, mi viene in mente, perché anche se uso il plurale maiestatis, in realtà sono qui in solitaria. E la puntata di oggi di Slick Chick è dedicata ai nomi. Allora, qui chiaramente si potrebbe aprire un mondo. I nomi, soprattutto in questa puntata si parlerà di nomi propri, quindi nome di persone. E chiaramente immaginerete, come già penso il vostro cervelletto ha iniziato a galoppare, ecco, di nomi dedicati, cioè di canzoni dedicati a dei nomi propri di persona, ce ne sono milioni, miliardi, è un po' forse la cosa più facile da fare, no? Si scrive musica e la si dedica a una persona. Non necessariamente dobbiamo subito pensare all'amore, ci potrebbero essere anche mille altre scuse, mille altri motivi per cui vale la pena dedicare un brano a una singola persona, proprio quella singola persona lì. Beh, in effetti non è che state sbagliando, ce n'è veramente di miliardi di pezzi musicali dedicati a persone ben precise, quindi a nomi ben precisi. Non sto parlando qui di singole, cioè di nomi che valgono un po' per tutti, ma pezzi musicali dedicati proprio a quella persona lì, a quel personaggio. E io ho dovuto ovviamente fare una grossa cernita, come sempre del tutto arbitraria, ma la trasmissione è mia e faccio quel che mi pare. E quindi ho selezionato all'incirca, quanti sono? 10? Sì, 10 pezzi. 10 pezzi perché il tempo a disposizione di Slick Chick, come saprete, ormai è insomma non tantissimo, un'ora e un quarto, un'ora e mezzo, poco più. e quindi non è che potevo proprio essere così esaustiva come avrei voluto. D'altronde, non è che tutti i pezzi, oltretutto, che sono stati scritti per le persone valgono così la pena di essere raccontati o ascoltati. Ecco, io ho fatto una piccola selezione, ma chissà, magari in futuro potrò cogliere la palla al balzo per farne di altre e potrà esserci una seconda puntata, chissà. Intanto iniziamo e iniziamo dai Kinks. I Kinks, ve lo devo dire, in realtà sono un gruppo che io non ascolto mai nella mia vita quotidiana. Non è che normalmente vado in giro con le cuffie con dentro i Kinks che suonano, però devo dire che Slick Chick ve li ripropongo abbastanza costantemente perché fanno dei brani sempre molto intelligenti, sempre molto gradevoli. E quindi è anche questa l'occasione, quando si parla di nomi propri, i Kinks ci vengono incontro subito, bam, prendono la palla subito, il passaggio lo prendono subito, perché hanno scritto un brano nel 68 chiamato Do You Remember Walter? Iniziamo subito appunto con i nomi propri, Walter in questo caso. L'album è The Kinks Are the Village Green Preservation Society. I Kinks in questo brano ci parlano di quelle particolari persone che esistono solo nei nostri ricordi. Questi nomi che vi sarà capitato, immagino, a me sicuramente tantissime volte, ma secondo me un po' a tutti, questi nomi che richiamano aneddoti, avventure, dei momenti, delle storie, a volte anche delle leggende, ecco. Capita che torni a casa e rincontri quelle persone, magari te adesso vivi chissà dove, torni a casa nel paesino, rincontri quelle persone, compagni di scuola, vicini di casa, lontani parenti, chissà. E insomma, torni a casa e rincontri quelle persone e sono cambiate e ti accorgi che non sono più le stesse che conoscevi. E quei nomi, in fondo, sono nomi di altre persone che esistono ancora, vivide, ma soltanto nei tuoi ricordi. E quando vi rincontrate, insomma, magari a stento vi riconoscete. Di tutto questo parlano i The Kinks. Con Do You Remember Walter? E iniziamo proprio da qui il nostro racconto su le persone, i nomi di persona. People can remember. proseguendo, beh, siamo proprio all'inizio, ma proseguiamo subito celeri e veloci nella nostra scaletta di quest'oggi. Rimaniamo in Inghilterra e andiamo però sui business. I business nell'album Suburban Rebels del 1983 hanno intitolato un brano a Harry May. Ora, qui c'è un problema, come dire, filologico, storico, storiografico. Quando si scrivono delle canzoni su personaggi ben noti a tutti, si dovrebbe in realtà prevedere che magari tra 30 anni nessuno si ricorderà di chi stavamo parlando. Ed è questo il caso di Harry May e dei Business, almeno, non lo so, magari a Londra tutti si ricordano perfettamente di chi fosse Harry May, ma a me, poveraccia, che mi tocca ricostruire la storiografia di questo brano dei Business, è veramente un arduo compito. Perché? Perché quando questo Harry May, dicono i Business che fosse una specie di Robin Hood, un criminale ben noto a tutti, un criminale, ho detto con 7 R, come è giusto che sia, ben noto a tutti nel South London, stiamo parlando dell'inizio degli anni 80. E una volta però era ben noto a tutti, adesso non si ricorda, cioè almeno io non riesco a trovare traccia di chi fosse sto Harry May, se non il fatto, alcuni accenni appunto che fanno i Business dicendo che i giornali facevano un gran parlare di questo ladro, rapinatore, non so bene, questo Harry May, che probabilmente appunto era una specie di panico, scatenava il panico dentro i giornali quantomeno della società inglese degli anni 80. E loro sostanzialmente lo difendevano, dicevano anzi, averne di Harry May. E però a noi poveracci che siamo nel 2019, le tracce si sono un po' perse, quindi direi che adesso Harry May è diventato un po' un archetipo. Forse i Business non l'avevano pensata così, cioè forse erano meno pretenziosi, forse pensavano che la loro canzone poi probabilmente tanto l'avrebbero ascoltata in 10 e che comunque insomma Harry May si sa chi è. Non è così, e non è così, ed adesso diciamo che Harry May è un po' chi volete voi. Running. chicken that's smoking a wasp. I Beastie Boys, l'avrete probabilmente riconosciuti. Johnny Ryle, l'album è Paul's Boutique del 1989, e Johnny Ryle era un tipo che viveva per strada e che i Beastie Boys incrociavano spesso, pare, e probabilmente viveva dalle loro parti, ecco, e dice andasse raccontando di essere una grande star rockabilly decaduta, e i Beastie Boys ne raccontano le gesta in questo brano, così, senza giudizi né affettazione né romanticherie, probabilmente ne ammiravano lo stile in qualche modo, gli scarni Beastie Boys, un bellissimo pezzo secondo me. Radio Wombat, wombat.noblogs.org, il sito dove potete ascoltare, e probabilmente già lo state facendo in questo momento, lo streaming in diretta della nostra radio, oppure potete ascoltare i podcast con le repliche. Le registrazioni delle nostre trasmissioni, oppure dal sito sempre potete consultare tutte le varie pagine importanti e logistiche della nostra radio, ovvero per esempio il palinsesto, dove potete trovare gli orari delle nostre trasmissioni sia in diretta, se volete avere l'ebbrezza di ascoltarci in diretta, noi ci fate pure piacere perché ci sentiamo un po' stupidi altrimenti a essere qui con questo appuntamento che però ci siamo solo noi, oppure però se invece non potete per l'appunto in quel momento, potete ascoltarci facilmente in replica, nelle varie repliche che ogni trasmissione di Radio Wombat ha previste in palinsesto, oppure potete semplicemente così accendere lo streaming e vedere quel che va, quel che c'è, come peraltro si fa in una radio e come è bello che sia. E stessa cosa potete fare anche accendendo la vostra radiolina che capta le onde mediocri, in particolare dovete sintonizzarvi sulla 1359 AM, onde medie appunto, che dir si voglia, e MW se avete delle radioline international, e quindi anche in quel modo potete ascoltarci se siete fortunati da essere raggiunti dal nostro Wombat segnale, potete anche in quel modo ascoltare le nostre ovattate trasmissioni. E questi i contatti, in più vi butto lì anche il solito contatto via mail posta@wombat.insiberia.net al quale scriverci e contattarci per dirci un po' quel che volete. E queste erano più o meno le cose, i miei doveri da DJ Vombato. E fatto questo, adesso possiamo continuare con la scaletta in pace, tranquilli, e proseguire con un pezzone veramente classico. Un classicone che ha proprio, io penso, non lo so, neanche alle prime note, alla prima mezza nota, già sapete di cosa stiamo parlando. Barbran, quella lì. E che poi, non è mica The Beach Boys l'originale, magari lo pensavate, ma non è The Beach Boys. L'idea suprema di questo ingegnoso e fondamentale motivetto è dei Regents. Quattro anni prima sì, dei Beastie, era rimasta ai Beastie Boys, dei Beach Boys, nel 1961 precisamente, i The Regents pubblicano questo brano e talmente ti rimane in testa, talmente funziona che i Beach Boys subito lo prendono, lo fanno loro e oggettivamente poi passerà alla storia come un brano dei Beach Boys. E in realtà poi questa cosa è diventata, questo motivo è diventato talmente famoso, talmente forse anche un po' abusato, ma insomma c'è talmente rimasto addosso che l'hanno fatto un po' tutti. Per esempio, io butto lì gli Who, che pare fossero dei grandi fan dei Beach Boys e che quindi si sono cimentati con una loro versione di questa Barbran live, ma anche registrata. Ma esiste anche un'indimenticabile versione degli Skiantos nel 1984 che dice Barbran ti spalma la crema, cioè così, e la chiudo qui perché qualsiasi altra parola è di troppo. Ma noi in questo caso qui a Slick Chick vi facciamo sentire una cover che secondo me non avete mai sentito di un gruppo, beh, insomma, che merita, che si chiamano Los Locos del Ritmo. Che roba. Beh, hanno fatto una loro cover spagnoleggiante che non nulla a invidiare all'originale. Mi sento di dedicarla, beh, la potrei dedicare a mille persone, devo dire, ma ci sono in particolare alcune persone che da queste parti ci sentono molto per la cumbia e i ritmi latini e quindi mi sento di dedicarla a loro. Tanto sanno benissimo chi sono, anche perché non ne abbiamo molti e quei pochi che ci sono ce li abbiamo proprio tutti qua intorno e quindi a loro dedico questa versione di Barbran. Ba ba ba ba basta ver, ba ba ba basta querer, cuando te pida que me beses y que no me olvides, vas a ver, basta querer, al bailar yo te lo diré, y vas a ver qué feliz te voy a hacer, basta ver, basta querer. Basta ver cuando te pida que me beses y que no me olvides, vas a ver, basta querer, basta ver, basta querer, basta ver, basta querer, basta ver cuando te pida que me beses y que no me olvides, vas a ver, basta querer. Van a ser las veces que yo te voy a besar, vas a ver, vas a querer, vas a ver cuando te pida que me beses y que no me olvides, vas a ver, vas a querer, vas a ver, vas a querer, vas a ver, vas a querer, vas a ver cuando te pida que me beses y que no me olvides, vas a ver, vas a querer. Madonna. versione orribile, inascoltabile, no, non per loro, ma per la purtroppo scarsità di qualità tecnica, ecco, della registrazione. Allora, andiamo avanti e arriviamo invece, questo è un pezzone, proprio un pezzaccio. E, i Four Tops con Bernadette. L'album è Reach Out del 1967 e i romanticissimi Four Tops sono lì tutti seri che ce l'hanno tantissimo, sta Bernadette, lo sentirete proprio, cioè, ma urla proprio, cioè tutto, sta Bernadette, cioè proprio ce l'ha, che ovviamente deve restare fedele, legatissima, non deve guardare nessun altro, Dio ce ne scampi e liberi, deve stare proprio lì tutta incatenata a pensare solo a lui. E poi, ai Four Tops, quando gli hanno chiesto, sì, vabbè, ma insomma, ma sta Bernadette chi è? Ce l'ha una faccia, è una persona, insomma, ci avrà una sua storia, chi è? Chi è? Loro, belli belli, hanno risposto: ah, boh, ma ce ne sono 2000 di Bernadette. Me ne vengono in mente tipo due, anche solo ora, mentre parliamo. Capito? No? L'amor cortese, ah, che bello, che bello. Vabbè, però il pezzo è bellissimo, quindi va bene lo stesso, ma che volete, ma gli si perdona tutto. Quanto pathos. Ora proseguiamo nella nostra scaletta con il brano che in realtà è stata un po' la scusa per dare il là a questa scaletta, ovvero io volevo moltissimo mettere questo brano di Claudio Lolli, Anna di Francia, Perché? Per una ragione molto, molto personale e forse è molto così romantica, però perché era uno, penso, so, dei brani preferiti di Lorenzo Bargellini e siccome sono, insomma, ricorre da poco l'anniversario della sua morte, mi sentivo di metterlo e mi andava moltissimo di mettere questo brano. Ed ecco che effettivamente questo mi ha dato il là per costruirgli intorno tutta questa scaletta dedicata alle persone, ai singoli personaggi. E effettivamente Anna di Francia non è un brano davvero costruito su una singola persona, perché probabilmente questa Anna di Francia di cui parlava Lolli potevano essere mille Anne o mille altre donne. Probabilmente neanche davvero ci voleva parlare di una singola persona, ma spesso è così. Spesso nella musica, giustamente per fortuna, si parte dal piccolo per parlare poi del grande, insomma, dal microcosmo si arriva al macrocosmo, ed è così che in questo album ho visto anche degli Zingari Felici del 1976. Lolli dà vita a questo personaggio, Anna di Francia, ma più che a lei dà vita a chi gli parla, perché è proprio chi parla con questa Anna. Chi si rivolge a lei, che dice le cose più belle, più forse commoventi. E, una canzone secondo me veramente bellissima, le cui parole andrebbero incorniciate. E quindi così, con molta romanticheria e molto, molto sentimento, come dire, ci ascoltiamo questa Anna di Francia, che d'altra parte doveva prima o poi fare capolino. Anzi, forse irrompere dai microfoni di Radio Wombat. Francia che arriva, Anna che ride, Anna che scherza, Anna che ascolta, che parla, Anna che chiede, vuole sapere come andremo a finire la sera. Anna la piazza ti ama come Anna racconta l'ultima Francia, com'era grigia, com'era triste. Anna racconta un nuovo lavoro, sempre camice, solo camice. Anna ti sembra di essere pazza. Anna la piazza ti ama con me. Parlare si infila in un'osteria, forse stasera ha voglia di amore. Anna più bella che pazza. Anna la piazza ti ama come Anna. Troviamo tanti amici, uno comincia la discussione, sono momenti quasi felici. Anna mi guarda, faccio il buffone, e dove sarà la cultura operaia? Anna che scuote la testa, che dice di no. Sola, ti è già stancata di prenderci in giro, e Luigi Nono è un coglione. L'alternativa nella cultura non è solo ideologia, l'alternativa è organizzazione. Anna si arrabbia, basta parlare. Anna si alza, andiamo via, e mentre la strada mi fa perdonare, c'è Anna che brinda alla sua anarchia. Anna imprendibile, più di un momento, Anna dà un bacio alla piazza e poi se ne va. Sarò per te un orologio, il lampadario che ti toglie il reggiseno. Quando è tardi e notte e tu sei stanca e la tua voglia come il tempo manca. Non sarò per te un esattore di una lacrima 21 volte al mese. Non conterò i giorni alle tue lune, far l'amore senza rimborso spese. Non sarò per te solo lo specchio di una faccia che non cambia mai vestito. Non sarò il tuo manico di scopa, travestito da amante o da marito. Non sarò quel cielo grigio quel mattino, il dentifricio che fa pugni con il vino. Non sarò la tua consolazione e neanche il padre del tuo prossimo bambino. Per questa volta almeno sarò la tua libertà, per questa volta almeno solo la tua libertà. Per questa volta almeno la nostra libertà è la piazza calda e dolce di questa città. Sì, mentre perdevo tempo a inseguire le zanzare nella Wombat Caverna, che è già piena di questi vampiri che succhiano il mio sangue, il brano finiva e la scaletta proseguiva, o meglio, deve proseguire, e prosegue con un altro brano malinconico, molto triste devo dire, Martha di Tom Waits. L'album è un bellissimo album, Closing Time del 1973, che se non avete vi consiglio di andare a scaricare perché è proprio bello. È una canzone veramente appunto un po'... cioè non è che è veramente triste perché narra di cose triste, è proprio l'atmosfera... Tutto, questa voce roca, mamma mia. Insomma, c'è quest'uomo, Tom Frost, che chiama al telefono la sua vecchia fiamma, Martha, questa Martha, e sono passati 40 anni, Sono vecchi entrambi, cambiati, lontani, eppure Tom spera tanto che lei risponda al telefono. E finisce così, con questa cosa un po' in sospeso, questo conto un po' in sospeso, come una telefonata che sta squillando e che non si sa se risponderà. E proseguiamo però, andiamo avanti. Ci restano tre brani nella scaletta di oggi. Sono andata a pescare palle di fuoco, come si dice, però sono tre brani, tutti e tre molto densi, alcuni, due in particolare, anche un po' lunghi e comunque molto molto intensi. Partiamo da Nina Simone, quindi già, insomma, Nina Simone e intensità, già sono due sinonimi, come dire. Nel 1964 Nina Simone pubblica questo album Nina Simone in Concert, uno dei live, degli album live di Nina Simone, ne esistono diversi, insomma, ovviamente, e dentro c'è questo Pirate Jenny, in italiano la Jenny dei Pirati, che è un brano tratto dall'opera da Tre Soldi di Bertolt Brecht e Kurt Weill. Uno, direi forse uno dei brani più famosi dell'opera da Tre Soldi. Jenny in questo caso è appunto un personaggio ben preciso, è una prostituta sguattera, diciamo così, che sogna che arrivino i pirati a radere al suolo la città, a liberarla e incoronarla regina. È un po' un momento nell'opera da Tre Soldi in cui ci si concede una sorta di racconto nel racconto, perché a narrarlo non è la stessa Jenny, ma è l'altra protagonista, che è invece la vera protagonista, che racconta di questa Jenny che conosceva e ne narra il suo pensiero in qualche modo, si mette un po' nei suoi panni e c'è una sorta di pausa nel racconto dove si entra tutti in questo saloon, in questo bar dove Jenny lavora. E con lei appunto si maledice la città e il mondo in cui lei vive e ci si augura insieme a lei che arrivino i pirati a buttare tutto in aria, a scardinare, a radere al suolo la città appunto e a liberarla. E così dice in un pezzetto del lungo e intensissimo brano: ora signori potete cancellare quel sorriso dalla faccia, perché ogni edificio in città cadrà, tutto questo posto marcio sarà raso al suolo tranne questo albergo scadente che resterà in piedi sano e salvo. E voi direte: perché hanno risparmiato proprio quello? Sì, questo è quello che direte: perché hanno risparmiato quello? Tutta la notte, tra il rumore e la confusione, vi chiederete chi è quella persona che vive lassù e mi vedrete uscire in mattinata, tutta carina, con un nastro tra i capelli e la nave, il vascello nero, isserà la bandiera in cima all'albero e l'aria risuonerà per il tripudio. You people can watch while I'm scrubbing these floors and I'm scrubbing the floors while you're gawking. Maybe once you tip me and it makes you feel swell in this crummy southern town in this crummy old hotel, but you'll never guess to who you're talking. No, you could never guess to who you're talking. Then one night there's a scream in the night and you wonder who could that have been. And you see me kind of grinning while I'm scrubbing. And you say, what she got to grin? I'll tell you. There's a ship, the Black Freighter, with a skull on its masthead, will be coming in. You gentlemen can say, hey gal, finish them floors, get upstairs, what's wrong with you, earn your keep here. And you toss me your tips and look out to the ships, but I'm counting your heads as I'm making the beds, cause there's nobody gonna sleep here tonight. Nobody's gonna sleep here, honey. Nobody. Then one night, there's a scream in the night, and you say, who's that kicking up a row? And

A malincuore dobbiamo andare avanti e superare Nina Simone. Beh, però non ci allontaniamo di tantissimissimo perché rimaniamo su un altro brano piuttosto intenso e tra l'altro non ci allontaniamo neanche troppo nel significato. The Ballad of Lucy Jordan di Marianne Faithfull. L'album è il meraviglioso Broken English del 1979. Questo brano in realtà è di Shel Silverstein, parole e musica sono suoi, e ripreso però da Marianne Faithfull e infilato appunto in questo bellissimo album. Lucy Jordan è una casalinga di 37 anni che vive una tranquilla vita borghese, potremmo dire, ma che un giorno si rende conto che non sarebbe mai salita su una macchina sportiva per girare le strade di Parigi con il vento nei capelli. E se vi viene in mente Thelma e Louise, anche qua siete esattamente sulla strada giusta. Infatti, questo brano è stato anche infilato nella colonna musica di questo film. Lucy si arrampica sul tetto della casa e viene portata via in un'ambulanza, la lunga macchina bianca, per finire poi rinchiusa in un ospedale psichiatrico. E il finale è un finale sicuramente molto amaro, di cui però non è chiaro perfettamente il significato. A molti faceva venire in mente un suicidio, in realtà la stessa Marianne Faithfull ha smentito dicendo che no, che non necessariamente si trattava esattamente di un suicidio, ma in ogni caso, ecco, sicuramente non finisce a rose e fiori. Non poteva che cantarla Marianne Faithfull, appunto in questo bellissimo Broken English, con la voce amara e spezzata, ma anche piena di rivalsa. Thank you. had found forever as she rode along through Paris with the warm wind in her in chiusura. Dopo di me vi ricordo la replica di Tonight Alive o Basement Records a seconda della settimana che in cui capitate. Beh, però adesso mettetevi comodi o comode, perché c'è un ultimo brano da ascoltare riguardo a questa scaletta dedicata alle persone, nomi propri di persona. Il nome proprio in questione è Kirsten Supine, in particolare degli Swans. L'album è del 2014, To Be Kind, e è un omaggio, questo brano, degli Swans, al film Melancolia di Lars von Trier, che vi ricorderete, immagino, se non l'avete visto correte a guardarlo. E in particolare la Kirsten del titolo è Kirsten Dunst, una delle due attrici protagoniste, sono due sorelle nel film, di cui una è questa Kirsten, che poi vedremo c'ha tutta una sua evoluzione all'interno del film, psicologica e non. E gli Swans sono meravigliosamente didascalici, secondo me, in questo brano, nel descrivere con i suoni, con la musica, questa scena in particolare di Justin acciambellata sulla roccia mentre aspetta l'apocalisse, che già, già in partenza, appunto, anche proprio nel film, era un rimando a sua volta alla pittura. Questo film è pieno di pittura, è pieno di riferimenti appunto alla pittura e all'arte, ma insomma anche più di quello che sarebbe ovvio, al di là dell'ovvio omaggio a Ofelia del come si chiama, la locandina, ecco, del film. Ma in realtà ci sono molti altri omaggi, tra cui anche proprio questa scena di cui i Swans hanno colto l'essenza, e cogliendone l'essenza, appunto, ne hanno raccontato poi attraverso la musica, e ricreando, secondo me, io che non vedo da tantissimo questo film, in realtà riascoltando questo brano ce l'ho esattamente rivista, è come se insomma la musica descrivesse pienamente le immagini. Quindi con questo vi do la buonanotte o la buona serata, beh, insomma, ancora presto, sono le 21:56 almeno nel fuso orario del Wombat. E vi do appuntamento a martedì prossimo. Dovrebbero essere finite le defezioni e le mie manchevolezze, ci sarò. E quindi appuntamento a martedì prossimo, ma vi ricordo di rimanere in ascolto del Wombat, di Radio Wombat. Continuano i programmi in palinsesto, le repliche oppure anche le dirette a partire da domani. E quindi vi lascio però in compagnia dei degnissimi Swans. Buonanotte e a martedì prossimo. Ciao ciao. godsend wind to live your lips the river flows beneath your comb granite pines silver shine green velvet throne folding in the water brings the flower stream folding in the water sings the black horse scream may planets crash may God rain ash to seal our skin to fold the sea kneeling close seeking hands our blood is warm but what comes next I can't let it go. I won't.